Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e quest'oggi dalla redazione romana di Radio 24. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Partiamo subito, Elisabetta, con il Movimento 5 Stelle che si è riunito fuori Roma, tutti i parlamentari insieme a Beppe Grillo in una location alquanto inusuale per parlare di politica, un agriturismo vicino a Bracciano. Ma ci racconta tutto Andrea Viali qui con noi in studio. Allora Andrea, tanta segretezza inizialmente, poi com'è andata? Beh, Vincenzo, è andata che in realtà questa mattina si sono viste cose raramente viste prima, hanno sfiorato, se mi passi il termine, anche il comico, perché i parlamentari 5 Stelle hanno provato senza riuscirci a seminare i giornalisti e su due pullman inseguiti dalla stampa, dalle telecamere, hanno lasciato Roma verso questo luogo che è stato segreto fino all'ultimo, neppure loro sapevano dove stavano andando, un luogo che poi, come dicevi, si è rivelato essere questo ristorante, un agriturismo in località La Tragliata, una località che si trova fra Roma e il lago di Bracciano, e qui appunto dopo un pranzo a base di pacche di porcini e guanciale hanno finalmente incontrato Beppe Grillo. Non c'è stata una diretta streaming naturalmente, anzi è stata una riunione assolutamente a porte chiuse, anche se è comunque trapelato tutto quello che ha detto Beppe Grillo circa un'ora fa. Grillo che innanzitutto ha negato che vi siano divisioni interne. Non mi aspetto totale condivisione nel movimento, è legittimo che qualcuno la pensi in maniera diversa, ma non siamo noi che ci stiamo dividendo, sono gli altri, ha detto il comico, il quale si è anche detto convinto che se PD e PDL faranno un governo di larghe intese, la gente che oramai è stufa si ribellerà e prenderà i bastoni, sono state le parole testuali di Grillo. Ho detto a Napolitano di darci l'incarico, poi faremo un nome per Palazzo Chigi, ora il nome è Movimento, ha spiegato ancora Grillo, che ha invitato i suoi ad arrivare in qualche modo calmi all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, che ha detto sarà molto diverso da Napolitano. Abbiamo a che fare con gente incredibile, fanno dossier di tutti i tipi contro di me, ha avvertito ancora Grillo che evidentemente, se mi passi il termine, con il suo intervento più che altro ha cercato di ricompattare la sua pattuglia di parlamentari, molti dei quali, lo sappiamo, non sono d'accordo con la sua linea di chiusura al muro contro muro, contrarietà assoluta al dialogo con le altre forze politiche. Paccheri, porcini e guanciale, capito Vincenzo? Mica male. E poi i bastoni, eccetera. Mentre nel PD continua la faida interna, non volano i bastoni, ma volano frecciate, asce, coltelli. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, chiarisce un po' le frasi di ieri. Dice: non voglio l'alleanza con Berlusconi, lui si fida più di Bersani e di D'Alema. Insomma, Berlusconi si fida più dell'apparato del partito. Io chiedo solo di decidere in fretta, che stiamo perdendo tempo, lo pensa il 95% degli italiani. Renzi poi parla anche un po' forte dei sondaggi SVG che danno il PD al 36% se fosse lui alla guida del partito, al 28% se invece c'è Bersani. Hai capito il sindaco Vincenzo? Sì, e poi Renzi interviene anche nei rapporti suoi personali nei confronti del capo dello Stato. Renzi nega che il Presidente della Repubblica Napolitano l'abbia chiamato per chiedergli di provare a formare un governo e garantisce nessuna scissione nel PD. Uscire e fare un partito non ha senso, ce ne sono anche troppi. Queste le parole del sindaco di Firenze. Ma sentiamo allora quanto ti ha raccontato un renziano del Partito Democratico, Ivan Scalfarotto. Ma non credo si tratti di una frattura, è un legittimo scambio di opinioni. E Renzi, io ieri mi sono sforzato di dirlo con molta chiarezza, non aveva da nessuna parte suggerito un accordo strategico col PDL. Dopodiché oggi Renzi precisa e dice questa cosa di Bersani. In questo senso l'indicazione evidente è che chi governa la politica da 20 anni, sebbene facendolo in una situazione di dialettica, però comunque si riconosce in un sistema ed è innegabile che da 20 anni a questa parte la nostra politica gira intorno a Bersani, Berlusconi, D'Alema, a una classe politica che conosciamo bene. Insomma, è ora di rinnovare anche il Partito Democratico, visto che Renzi sarebbe al 36%, cioè porterebbe il PD al 36% secondo un sondaggio SVG? Beh, io ho appoggiato Renzi in tempi non sospetti e quindi l'ho fatto in quest'ottica, perché pensavo nel migliore interesse del partito che fosse il candidato destinato a prendere più voti. Però Ignazio Marino dice a Renzi: ma allora non è meglio venire in direzione nazionale e parlare di queste cose? invece di dirle ai giornali? Non è la direzione nazionale il luogo della discussione vera, in direzione nazionale, come avete visto anche via streaming, ovviamente si illustrano le posizioni dei vari, delle varie persone che intervengono, ma in questo caso probabilmente la discussione è bene che sia fatta anche pubblicamente, apertamente, visto che siamo in un'epoca in cui si difende, si pretende la trasparenza. Questo mi pare un caso di trasparenza, anche più trasparente di chi fa riunioni nei casali, diciamo, vicino Roma. Che ne pensa di questa riunione, no? Casareccia, un po' col vino dei castelli del Movimento 5 Stelle? Ma niente in contrario, se non che il 5 Stelle spesso invoca una specie di superiorità morale, e invece benvenuti nel club, cioè non c'è niente da fare, la politica significa anche delle volte parlarsi guardandosi negli occhi, perché quando si comincia a far politica, si sta in Parlamento, si cercano di risolvere i problemi del paese, si capisce che non tutto è così semplice come si voleva far credere. E ci sono quindi organismi dove Matteo non viene mai, questa era stata la critica di Ignazio Marino, spero che certi argomenti dovrebbero essere discussi nella direzione nazionale del partito. Ma cosa succede nel PDL? Dal PDL si sprona il PD da sempre ad un accordo, Bersani in sostanza deve smettere di inseguire Grillo, spiegano nel partito di Berlusconi, Silvio Berlusconi torna a ribadire che il voto non è la prima opzione, anche se è in testa nei sondaggi, vincerei, dice il Cavaliere, ma al paese serve un governo stabile, la cosa più urgente è far uscire il paese dalla crisi. I saggi poi continuano a lavorare, sentiamo cosa ne pensa la deputata del PDL Deborah Bergamini. Non credo che i saggi da soli potranno riuscire a venire a capo di questa crisi, io credo che loro hanno un compito, abbiano un compito molto delicato, molto importante, soprattutto perché con una tempistica estremamente breve. Io credo che oltre al loro lavoro sia necessario più che mai in questa fase che da parte di tutte, sottolineo tutte le forze politiche, arrivi finalmente chiara la volontà di collaborare affinché questo paese possa finalmente dotarsi di un governo stabile. Ecco, Matteo Renzi dice: io non voglio l'accordo con il PDL, anzi Berlusconi si fida più di Bersani e D'Alema, insomma del vecchio apparato. Ma lei le sta più simpatico, Renzi o Bersani? Non mi piace neanche tanto il discorso sulla simpatia, chi è più simpatico, chi è meno simpatico. Io voglio sperare che tutti pensino al benessere dell'Italia, però mi sembra che Renzi abbia detto pane al pane, ha detto ma quello che diciamo noi, ma non perché c'è un primato, ma perché è ovvio, ovvero prima ci si dota di un governo, prima la smettiamo con questi minuetti che non stanno aiutando il paese. Se poi all'interno del PD ci sono problemi di equilibri, di conflitti, di correnti, questo purtroppo andrà chiesto a loro. Andiamo alla terza forza politica di questo paese, ovvero il Movimento 5 Stelle. Che ne pensa di questa scampagnata a Bracciano, di questi deputati insieme tutti quanti in pullman in una località segreta, in un agriturismo? Lo farete anche voi nel PDL? Ma guardi, noi di segreto sinceramente non abbiamo mai fatto nulla, mi sorprende la pretesa di trasparenza da parte del Movimento 5 Stelle quando si tratta di avere a che fare con le altre forze politiche, ricordiamo il caso della diretta streaming delle consultazioni con Bersani, e nello stesso tempo la pretesa di assoluta segretezza nel momento in cui si prendono le decisioni all'interno del partito, si decide del Movimento, si decide quale linea tenere. Ciò che si concede nell'immaginario a loro non sarebbe neanche minimamente immaginabile poter concedere ai partiti tradizionali. E queste dunque le parole di Deborah Bergamini del Popolo della Libertà. La Lega, intanto la Lega cosa fa? Si riunisce non in un agriturismo ma in un luogo storico per il Carroccio, vale a dire Pontida. Roberto Calderoli e Roberto Maroni rilanciano la battaglia per la macro regioni, ricordiamo l'appuntamento di domenica. Ieri il segretario della Lega è tornato a parlare anche della moneta complementare. Riguardo a Scelta Civica, ribadisce Scelta Civica l'ampia condivisione anche per la formazione di un governo data ieri da Mario Monti a Pierluigi Bersani. Sul fronte economico invece fine settimana di lavoro per i ministri che devono varare l'atteso decreto che sbloccherà finalmente i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, ricordiamo 20 miliardi quest'anno, 20 il prossimo, ci saranno tagli lineari ai ministeri, così il governo pensa di recuperare i soldi necessari. Intanto la situazione incandescente preoccupa, Vincenzo, anche attori, registi e uomini di spettacolo. Sentiamo cosa ne pensa della crisi politica un big della canzone italiana, come Massimo Ranieri. L'ha sentito per noi Alessandra Schepisi. L'idea è quella che ci facciamo tutti quanti noi italiani. Siamo veramente in, come dire, in balia di un qualcosa che non sappiamo come succede, quando succede. L'unica cosa posso dirle, guarda, questo io lo dico con una grande sincera verità, è che sono sicuro che domani finirà. Come diceva il film, domani è un altro giorno. Non so quando è questo domani. È domani? Proprio domani, sabato, venerdì? O è domani fra una settimana o è domani tra un mese? Peggio di così non può andare. Io credo. Prima o poi se ne esce. Forse abbiamo toccato il fondo, mi auguro, lo spero. Non a caso sentivo un TG in radio e diceva che lo spread addirittura era abbassato di 20 punti e non era salito per come ci si aspettava, no? Tra le dimissioni del presidente Napolitano, che non riusciva a fare questo governo anche tecnico e quant'altro, per cui sentivo che ma forse tutto sommato il peggio è passato, oppure abbiamo toccato il fondo, diciamo così. Ma adesso deve solo che risalire, dobbiamo risalire. E la cosa che mi sorprende, glielo dico proprio con la massima onestà, è che il pubblico non abbandona mai, anche nei periodi più neri come questi, che io non ne ho mai visti, eppure qualche governo l'avrò visto passare nei miei 62 anni, no? E posso dire che in un momento così nero, mai visto nella mia vita, la gente continua ad andare al teatro, continua ad andare a vedere gli spettacoli, e questo vuol dire che è proprio un'esigenza proprio psicofisica che la gente ha bisogno. Ecco, allora ringraziamo Alessandra Schepisi e Massimo Ranieri, anche perché per fortuna la gente, almeno anche in questa crisi, trova un'occasione di svago nel teatro. Ma intanto ricordiamo gli appuntamenti istituzionali. Il 18 aprile appuntamento, il Parlamento si riunisce in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il PDL, non ho capito Vincenzo, ma continua a spingere per Emma Bonino? Spinge da una parte per Emma Bonino, ricordiamo Carfagna, Prestigiacomo, dall'altra però queste parlamentari subiscono le bacchettate del loro capogruppo Brunetta, che dice sono scelte personali, non rispecchiano questa espressione nei confronti della Bonino né le opinioni del capogruppo né dell'intero Popolo della Libertà. Ma noi continueremo a raccontarvi la politica. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.